Mercoledì 10 ottobre, vi annuncio tra l'altro giornali che sono un pochino superati per le ultime novità del Consiglio dei Ministri che è andato avanti fino a tarda notte, di cui poi vi daremo conto delle notizie che escono più in una rassegna stampa molto molto così in diretta dalle notizie che escono dalle agenzie, più che dai giornali che sono stati chiusi ovviamente ieri sera. Ma vediamo i titoli intanto. Per il Sole 24 Ore, mini taglio all'IRPEF, stretta su sanità e regioni. Corriere della Sera, tutti i tagli, il giallo della riduzione IRPEF. Ecco, anche qua, il giallo della riduzione IRPEF. Questi sono i titoli, diciamolo subito. Allora, il Consiglio dei Ministri ha stabilito che c'è il taglio dell'IRPEF di un punto per ovviamente le aliquote più basse. Quella del 23 scende al 22%, quella del 27 scende al 26%. Questo è il taglio dell'IRPEF previsto dal governo. Nel frattempo invece aumenterà l'IVA da luglio di un punto, l'IVA dal 10 all'11% e dal 21 al 22%, questo da luglio dell'anno prossimo. Repubblica, stangata per sanità e statali. La Stampa, governo, manovra da 12 miliardi, il secolo XIX, tagli a sanità e legge 104. Il Messaggero, sia i tagli, scoppia il caso sanità. Poi c'è invece chi apre, sul, come il Fatto Quotidiano, su Reggio Calabria, sciolta per mafia. L'Unità, un altro colpo alla sanità, mentre il Giornale, si scioglie il PDL. Libero, Silvio frega tutti. Questi i titoli, alcuni dei titoli di apertura, vedremo gli altri compatibilmente con il tempo. Ora però voglio iniziare da questa notizia che riguarda i presidenti di provincia. E allora qui quella che sembrava una buona notizia ieri, e cioè tre presidenti di provincia, all'inizio erano quattro, poi uno, quello di Milano, ha fatto retromarcia all'ultimo momento, hanno annunciato e si sono dimessi. Il presidente della provincia di Napoli, il presidente della provincia di Asti, il presidente della provincia di Biella. E uno dice, vedete che buona notizia. Ma in realtà è un trucchetto, cari ascoltatori, è un trucco banale. Perché ieri era l'ultimo giorno per dimettersi dalla provincia per queste persone che sono anche, tra l'altro, deputati, per poter optare di potersi candidare al Parlamento alle prossime elezioni politiche. Cioè, o lo facevano entro ieri, oppure non potevano più candidarsi in Parlamento. E infatti tutti i giornali la pongono così: province, fuggi fuggi di presidenti, così il Quotidiano Nazionale. Il Fatto Quotidiano, a pagina 3, le dimissioni col trucco, da Cesaro a Podestà. Per la verità Podestà, presidente della provincia di Milano, poi non si è dimesso. Oppure guardate qui ancora sull'Unità, le finte dimissioni di Gigino a Purpetta, questo sull'Unità riguardo Cesaro. Il Giornale, fuga dalle province per un seggio in Parlamento. C'è anche un editoriale, un commento in prima pagina che racconta bene questa storia del Corriere della Sera, il commento è di Aldo Cazzullo. Presidenti in fuga tentati dal seggio, scrive Cazzullo. Si dimette il presidente della provincia di Napoli, Cesaro. Protesto contro le severissime assurde misure di spending review. Ma i napoletani possono tirare un sospiro di sollievo, perché aggiunto non si esaurisce il mio impegno per Napoli e il Mezzogiorno. Con il partito valuterò il da farsi anche in riferimento a una mia eventuale candidatura alle prossime elezioni politiche. Si dimette il presidente della provincia di Asti, Maria Teresa Armosino. Protesto per l'impossibilità manifesta di far valere le ragioni del territorio. Ma poi aggiunge, assicurerò a questa terra e ai suoi abitanti la prosecuzione del mio impegno nell'ambito della mia attività di parlamentare. Si dimette il presidente della provincia di Biella, Roberto Simonetti. Protesto per i dati drammatici del bilancio a causa dei tagli del governo. Ma i biellesi vengono rassicurati, proseguirò la mia attività politica e istituzionale del nostro territorio. Epidemia? Piaga biblica ondata di protesta civile? No, dice Cazzullo, la contemporanea caduta di tanti amministratori ha un motivo meno preoccupante, ma anche meno nobile. Ieri era l'ultimo giorno utile per chi intende entrare in Parlamento alle prossime politiche, evitando l'incompatibilità con l'attuale carica. Curiosamente, per evitare la riduzione delle province da 110 a 14, molti presidenti si sono battuti come leoni fino all'ultima ora disponibile, annunciando ricorsi alle massime magistrature dello Stato. Poi hanno valutato di essere ancora in tempo a dare il loro contributo alla collettività da un altro scranno. Il presidente di Salerno ha lasciato al suo vice, dopo essersi fatto dichiarare incompatibile dal Consiglio. Se ne sono andati i presidenti delle province di Nuoro e di Rieti, e per non essere da meno pure il sindaco di Avellino, Galasso, del PD. Se ne sarebbe andato volentieri anche il presidente della provincia di Milano, Podestà. Alle 13.31 ieri annuncia le dimissioni, convocando alle 16 una conferenza stampa, aggiungendo su Twitter: governare una provincia in queste condizioni è quasi impossibile. Poche ore dopo prevale il quasi. Alla conferenza stampa Podestà annuncia che rimane, ma non ho cambiato idea. E comunque, se anche mi fossi dimesso, non è assolutamente detto che mi sarei candidato al Parlamento. Come no? Scrive Aldo Cazzullo. Casi imbarazzanti, ma pur sempre personali, fino a un certo punto, perché qui la persona è tutto e l'interesse generale nulla. Ruoli e responsabilità irrinunciabili cedono il passo a carriere e prebende. Così il Consiglio Provinciale di Napoli dichiara decaduto il presidente, in modo da potersi affidare al suo vice e salvare lo stipendio fino alla fine. Né deve stupire che il suicidio collettivo avvenga dal Biellese all'Irpinia, dalla frontiera svizzera al profondo sud. È l'Italia de Noantri, felicemente unificata dalla privatizzazione della politica. Così Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, davvero pare definibile così, senza ombra di smentita, una farsa questa delle dimissioni dei presidenti di provincia. Prima della pubblicità è stata condannata a pagare 40.000 euro Sabina Guzzanti per le satira, giudicata non satira ma opinione diffamante, lesiva della reputazione dell'ex ministro Mara Carfagna. Insulti alla Carfagna, Guzzanti condannata a pagare 40.000 euro. Questo è il titolo del giornale a pagina 12, racconta Paolo Bracalini. Per la verità aveva chiesto 1 milione di euro Mara Carfagna, quindi è andata bene anche a Sabina Guzzanti. Una che aveva detto, racconta il giornale, tu non puoi mettere alle pari opportunità una che sta lì perché ti ha succhiato. E qui mi fermo, ma la frase in realtà di Sabina Guzzanti continuava. Ecco, questa non è stata giudicata satira, ma diffamazione, e Mara Carfagna otterrà 40.000 euro di risarcimento. Come ha commentato Sabina Guzzanti su Twitter, lo ricorda il Corriere della Sera, ho avuto torto, ho offeso la Carfagna, per la verità ho insultato Berlusconi, ma Carfagna ha tutto il diritto a sentirsi offesa, anche se la nomina ministro mi era sembrata uno sfregio. Quello che mi sento di contestare è che, se è vero che è un'offesa, è pur vero che è molto più offensivo quello che gli italiani e le italiane in particolare hanno subito con la sua nomina a ministro. Pagherò quindi, non dico volentieri, ma con una certa soddisfazione, questi 40 stuzziconi che guadagnerò lavorando. Condannata a pagare 40.000 euro da Sabina Guzzanti a Mara Carfagna. Ci sentiamo tra 5 minuti. Le 7.36 minuti, allora, nella notte, in tarda notte, il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di stabilità. Questa è la notizia principale che trovate su tutti i giornali. Devo dire che il Sole 24 Ore fa un lavoro dettagliatissimo per spiegare tutti i punti di questa legge di stabilità. Ne ricapitoliamo i più importanti. Allora, è stato deciso un mini taglio dell'IRPEF. Quindi giù le tasse per le aliquote più basse, quella del 23 scenderà al 22 e quella del 27 al 26%, questo già dal 2013. Però aumenta l'IVA da luglio dell'anno prossimo, aumenta l'IVA di un punto percentuale, dunque l'IVA dal 10 all'11%, dal 21 al 22%. Ora qui come ce la venderanno questo aumento dell'IVA? Perché avevano detto che ci doveva essere un aumento di 2 punti, però poi io ricordo che avevano detto vengono fatte delle spending review per scongiurare l'aumento dell'IVA, e dunque prima avevano detto che era di 2 punti, poi che era di 0, cioè non c'era nessun aumento dell'IVA. Ora questo aumento di un punto come ce lo venderanno? Come aumenta solo di un punto quando avevamo detto di due, oppure, quindi con una minaccia scongiurata per metà, aumenta solo di un punto, oppure come una promessa mancata, perché a un certo punto avevano detto stiamo facendo di tutto per scongiurare l'aumento dell'IVA. Come la vedete voi, cari italiani? Sta di fatto che aumenterà di un punto percentuale l'IVA a partire da luglio. Poi altri punti li leggo dal Sole 24 Ore, che a pagina 2-3 fa anche tutta una pagella giudicando l'efficacia da media, alta, media e bassa su ogni provvedimento. Allora l'aumento, il taglio dell'IRPEF è giudicato di efficacia alta. Poi previsti 1,2 miliardi nel 2013 di detassazione dei contratti di produttività, anche questa è giudicata di efficacia alta al Sole 24 Ore. I pagamenti della pubblica amministrazione, questa è una novità molto importante che guarda molte imprese che lavorano con il pubblico, arriva un'attuazione della direttiva sui pagamenti che stabilisce un termine ordinario di 30 giorni alla pubblica amministrazione per saldare i conti con le imprese, efficacia giudicata media. E c'è il taglio alla sanità per 1,5 miliardi, una forte stretta sul fabbisogno sanitario per l'acquisto di beni, servizi e dispositivi medici, efficacia bassa. E infine i 5 punti più importanti, poi ce ne sono tanti: il blocco fino al 2014, contratti congelati per il pubblico impiego e per i dipendenti pubblici, niente vacanza contrattuale in busta paga. L'efficacia è giudicata di questo provvedimento alta. Efficacia vuol dire quanto incide in termini per il provvedimento in termini numerici, per un totale la legge di stabilità di 11,6 miliardi. Ci sono altri provvedimenti, per esempio il provvedimento dell'iniziativa Cieli Bui, cioè si è deciso di spegnere le strade, l'illuminazione sulle strade extraurbane di notte e di spegnere le luci degli edifici pubblici. È una campagna giustissima quest'ultima. Perché in Parlamento, giusto per dire l'edificio pubblico più importante, in Parlamento e al Senato, tutta notte, fanno notare molti, ci sono le luci accese, uno spreco immane di energia. Ma poi ci sono tanti altri provvedimenti, per esempio lo stop all'acquisto di nuovi uffici immobili per il pubblico, le novità sulle intercettazioni, c'è lo stop definitivo al ponte sullo stretto di Messina. C'è anche la Tobin Tax, arriva il sì dell'Italia alla Tobin Tax. A pagina 4 del Sole 24 Ore, Beda Romano racconta: dopo mesi di negoziati, anni di discussioni, 11 paesi della zona euro hanno annunciato ieri di voler adottare la controversa tassa sulle transazioni finanziarie. Secondo il vice ministro austriaco, ha detto questa frase, per la verità mutuando la celebre frase di Armstrong sulla Luna: si tratta di un piccolo passo per 11 paesi, ma un salto gigantesco per l'Europa. Così ha detto. La Tobin Tax, per la quale l'Unità ha fatto una campagna negli ultimi giorni, c'è stato anche il sì dunque definitivo anche dell'Italia. Dino Pesole a pagina 5 del Sole fa già dei calcoli sul possibile gettito previsto dalla nuova tassa da azioni e derivati, 1 miliardo di euro, parte con una dote di 1 miliardo la tassa sulle transazioni finanziarie, che entra così a pieno titolo tra le coperture della legge di stabilità approvata ieri sera dal Consiglio dei Ministri, anche se c'è un articolo sempre di Dino Pesole affiancato su questa controversa tassa, perché il rischio è che ci sia la fuga di capitali verso i nuovi paradisi fiscali. Per esempio, solo fino a poco fa David Cameron, il premier britannico, aveva definito l'ipotesi di una tassa sulle transazioni finanziarie è come se ai francesi si chiedesse un'imposta sul formaggio, perché chiaramente David Cameron difendeva soprattutto gli interessi di Londra e delle transazioni finanziarie alla City. Questa è la sua idea sulla Tobin Tax. Per la verità, secondo un retroscena di Repubblica, firma Fabio Martini a pagina 6, anche Mario Monti non era poi così convinto della Tobin Tax. Sentite quello che Mario Monti avrebbe detto qualche tempo fa, incontrando il presidente francese Hollande, sulla Tobin Tax. Per me è un regalo a Londra. Ma alla fine pur ritenendolo un regalo a Londra, poiché ne capisco le ragioni, l'Italia dirà di sì. Insomma, un Monti che avrebbe accettato questo sia la Tobin Tax un po' controvoglia, pur considerandolo un regalo a Londra. Chi esulta invece per la nuova Tobin Tax è Avvenire. In prima pagina c'è l'editoriale Tobin Tax, finalmente Leonardo Becchetti e la firma. Con l'adesione dell'Italia sono 11 gli stati favorevoli a far partire la Tobin Tax nell'Unione Europea. L'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie non è la panacea di tutti i mali, ma è una tappa fondamentale, simbolica e allo stesso tempo concreta per risolvere il principale problema dell'economia globalizzata, quello del rapporto squilibrato tra finanza, economia, politica e società. Questo l'incipit dell'editoriale di Leonardo Becchetti in prima pagina di Avvenire. Come detto, un altro tema che ha riscosso molto successo e che ha riscosso molto, molto consenso è quello dei debiti della pubblica amministrazione che dovranno essere pagati a 30 giorni. Questo almeno è previsto nel recepimento di una direttiva dell'Unione Europea. Sono possibili deroghe fino a 60 giorni. Sapete che l'Italia è il paese delle deroghe, quindi anche qui dobbiamo accontentarci di questa deroga. Sta di fatto che sarebbe almeno un passo in avanti rispetto a casi di pagamenti a pubblica amministrazione che arrivano ad anni, non mesi, ma anni, e ce ne sono tantissimi. Il taglio dell'IRPEF, l'abbiamo detto, c'è stato anche un giallo, perché ieri il sottosegretario Polillo era a Ballarò a dire: spero di non essere smentito dal Consiglio dei Ministri, ma l'idea è quella di tagliare di un punto le aliquote IRPEF più basse. Una bomba lanciata nello studio di Ballarò. Pochi minuti dopo il governo ha smentito, definendo l'idea destituita di ogni fondamento. E poi cosa hanno fatto? E poi invece l'hanno approvato. Quindi evidentemente questo significa che all'interno del Consiglio dei Ministri ci deve essere stata una discussione anche molto molto seria e molto molto dibattuta su questo tema. Poi, ripeto, la decisione di tagliare un punto di IRPEF per le due aliquote più basse, quella dal 23 scenderà al 22 e quella del 27 scenderà al 26 già dall'anno prossimo. Questo per la legge di stabilità. È già tempo di pubblicità e traffico, e viva, ci risentiamo subito dopo con la politica. Eccoci qua, ci siamo. Allora, la politica, sicuramente la conferma ieri c'è stata anche in audio in un'intervista di Silvio Berlusconi, che ha deciso: non mi candido, il passo indietro per unire i moderati. E poi ha detto: può essere Monti il candidato. Ecco questo endorsement che ha gettato sicuramente il PDL nel caos. Tant'è vero che oggi il giornale titola così: si scioglie il Popolo della Libertà, rivoluzione nel centrodestra. Secondo Francesco Verderami, notista politico del Corriere della Sera, il Cavaliere, col suo endorsement a favore del Presidente del Consiglio, ha trasformato le prossime elezioni in un referendum pro o contro Monti, tagliando un nodo che non poteva sciogliere, dato che il professore non può né vuole trasformarsi da premier super partes nel capo di una parte. Solo così può essere risolto il paradosso di un candidato che non c'è, che però resta il più accreditato successore di se stesso a Palazzo Chigi per tutta una serie di fattori interni e internazionali. In realtà ora i giornalisti si sbizzarriscono nel retroscena per capire perché, che cosa ci sia dietro veramente questa mossa di Silvio Berlusconi. Secondo Michele Brambilla sulla Stampa, trovate l'articolo a pagina 9 sotto il titolo "I tormenti del Cavaliere, faccio il passo indietro per le mie aziende". Ecco, questa sarebbe la confessione che lo stesso Berlusconi avrebbe fatto all'amico di vita, Fedele Confalonieri. È meglio per le nostre aziende che questa volta faccia davvero un passo indietro. È definito non affatto depresso, anzi seriamente impegnato per fare in modo che anche senza di lui il fronte moderato possa impedire alla sinistra di governare. Ma certo, questa considerazione fatta con Falonieri: le mie imprese sono messe peggio di quando entrai in campo e dunque è meglio che faccia un passo indietro, ebbene, è il motivo, secondo Michele Brambilla, che ha spinto a questo passo indietro. Invece Francesco Bei su Repubblica in qualche modo pare avere già sondato, ma sono sempre retroscena e quindi vanno presi così con il beneficio del dubbio, pare abbia già sondato la risposta di Mario Monti. di fronte a questo endorsement esplicito e palese di Silvio Berlusconi. Il grazie no del professore, questo è il titolo del retroscena che trovate in prima pagina di Repubblica. No grazie, sondato nuovamente nei giorni scorsi da Berlusconi sulla possibilità di guidare uno schieramento conservatore, Mario Monti ha ribadito per l'ennesima volta il suo no. Non mi interessa, non è in questo modo che posso essere utile al paese. Così avrebbe risposto Monti. Tra l'altro, secondo Repubblica, anche Montezemolo si sarebbe in qualche modo smarcato da questo invito a Berlusconi di riunire tutti i moderati per battere il centrosinistra. Avrebbe detto Montezemolo: tranquilli, non ci faremo risucchiare e quindi arruolare nell'esercito del Cavaliere. Semmai manterremo una posizione centrale ora che Berlusconi sembra intenzionato a non candidarsi e potremo indurre così qualche moderato del PDL a lasciare quel partito. Quindi più che essere risucchiato, Montezemolo pensa a risucchiare lui o travasare qualcuno del PDL dalla sua parte. Sta di fatto che questo si muove nel centrodestra, mentre nel centrosinistra devo notare un'intervista, un colloquio al vetriolo di Massimo D'Alema, intervistato da Federico Geremicca sulla Stampa, un Massimo D'Alema che ce l'ha contro Renzi. Matteo Renzi, che oggi, se comprate chi il settimanale berlusconiano per eccellenza, quello di Alfonso Signorini, campeggia in prima pagina di copertina. Matteo Renzi a colloquio con suo padre. Con Matteo Renzi che dice anche di suo padre: anche tu hai l'età di Bersani, ti devo rottamare, vai in pensione. Quindi si sbizzarriranno ancora di più, no? Sul Matteo Renzi berlusconiano, Matteo Renzi in realtà di più di destra che di sinistra. Oggi campeggia sulla prima pagina, la copertina del settimanale Chi. E Massimo D'Alema, per l'appunto, si toglie dei sassoloni dalla scarpa. Già il titolo è questo: volevo lasciare, ma ho deciso di restare. Guardate, ne avevamo perfino parlato con Bersani, un paio di mesi fa gli avevo detto: ragioniamo, troviamo un modo per un mio impegno diverso, del resto lavoro già tantissimo, sa? Un appuntamento dietro l'altro, spesso all'estero, ma ora no. Così, per quanto mi riguarda, no. Ecco, Massimo D'Alema, come dire, dopo che Matteo Renzi ogni giorno sparla di me, mi vuole rottamare, allora, dice D'Alema, sapete che se mi stuzzicano, reagisco. Renzi ha sbagliato e continua a sbagliare. Renzi si farà del male. Questa è la promessa politica esplicita di Massimo D'Alema, che poi attacca. Sono andato a Matera per un convegno su Berlinguer, c'era il doppio del pubblico di quello che ha accolto Renzi, ma i giornali non lo scrivono. E poi sentite ancora quest'altra accusa. Va in giro in camper. Ma che camper? Sapete come va in giro Renzi a Sulmona, per esempio? È arrivato in jet privato da Ciampino, poi in Mercedes. In camper ci sale alle porte di Sulmona, ma quando arriva in piazza tutti ad applaudire il giovane ribelle, che è altro che auto blu, lui viaggia in camper. Non lo ha scritto nessuno che si muove così, anzi no, lo ha scritto Repubblica, ma in cronaca di Firenze. Ora leggo che è finanziato addirittura dall'America, da Paolo Fresco. Che altro dire? Ecco, vedete ancora l'accusa molto sottile, il finanziamento dall'America che torna. Insomma, Massimo D'Alema che spara a zero su Matteo Renzi. Ci sarebbe da dire molto ancora, per esempio, di Reggio Calabria. Sciolto il comune per mafia, contiguità alla mafia. Questa è stata un'altra decisione della notte del Consiglio dei Ministri, ma c'è già sui giornali. Reggio Calabria, i clan dentro le municipalizzate, abbiamo sentito nel giornale Raggi, sono scattati anche gli arresti. La prima volta che il capoluogo viene sciolto, che un capoluogo, in questo caso Reggio Calabria, viene sciolto per mafia, è un atto preventivo, ha detto il ministro Cancellieri. Voglio chiudere con questa notizia che c'è solo su Repubblica. Ricordate il comandante per eccellenza Schettino. Il comandante Schettino è stato licenziato dalla Costa Crociere e lui fa causa. Lo racconta Marco Preve su Repubblica, pagina 19. Schettino, il comandante della Concordia, è stato licenziato dalla compagnia Costa Crociere. Lui però ritiene di essersi comportato correttamente e per questo motivo ha impugnato il provvedimento al giudice del lavoro, contestando la motivazione per giusta causa e chiedendo reintegro e stipendi arretrati. Scommettiamo 10 centesimi che il giudice del lavoro gli darà pure ragione? Alla prossima puntata, Giornale Radio.